Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo. Bentornati all'ascolto, e anche questa puntata la dobbiamo a Riccardo Silvi, il nostro redattore, alla guida di Alessandro Chiappini, il nostro regista. Poi avremo, come di consueto, la nostra guida per questa settimana è Vincenzo De Cecco, benvenuto. Grazie. Vincenzo De Cecco insieme a Riccardo Cremona hanno mandato in libreria per Chiare Lettere, come si usa adesso, un cofanetto con CD, lo script, il libro, Miss Little China, sudano, piangono, sognano, l'Italia dei cinesi, ed è, diciamo, il proseguo di una ricerca, di un percorso che ha già avuto una prima tappa, se non sbaglio, De Cecco, I cinesi non muoiono mai. Esattamente, un libro di Riccardo Staglione e Raffaele Oriani, che è un giro attraverso le comunità cinesi di tutta Italia, alla scoperta di del nuovo miracolo italiano, in qualche modo. Sì, appunto, anche, diciamo, alla scoperta poi di tutta la leggenda metropolitana, appunto quella a cui alludeva la precedente ricerca, che i cinesi non muoiono mai perché poi si trasmettono il visto di soggiorno, le carte d'identità, così di ondata in ondata. Esattamente. Invece scopriamo che dentro il sistema economico italiano c'è una parte di nuovi italiani, perché forse questa è la definizione più adatta, visto che ormai abbiamo cinesi di terza, quarta generazione. A Milano addirittura sono presenti la prima e la seconda guerra mondiale. Esattamente, sì. E però fino adesso sono state delle comunità in realtà molto chiuse, perché le prime generazioni hanno pensato prevalentemente a lavorare. Secondo un modello molto simile a quello, in qualche maniera, dell'emigrazione italiana, che è su base regionale e familiare, e in comunità chiuse con una, in qualche maniera, una propria economia. E quindi queste persone sono potute rimanere in Italia per 20-30 anni, diventare imprenditori, parlando pochissimo italiano. E qui in qualche maniera entrano in ballo le nuove generazioni, questi ragazzi nati negli anni 80, venuti in Italia da piccoli, che parlano perfettamente italiano. Anzi, è molto divertente vedere le varie cadenze dialettali che si appiccicano a queste. E cominciano a fare i carabinieri, tra l'altro. Assolutamente. Sì. Quest'anno c'era anche un candidato alle elezioni europee. E quindi sì, anche hanno un forte desiderio di integrazione. In qualche maniera prendono, forse, speriamo, il meglio dei due mondi, o forse il peggio. È presto per dirlo. E compongono anche, tra l'altro, comunità, perché poi, diciamo, per generalizzazioni poi si arriva a dire sono cinesi o sono tutti comunisti, tutti buddisti, invece in realtà rappresentano anche una società fortemente orientata in senso pluralistico, perché stanno rivitalizzando, a parte le comunità cattoliche, stanno rivitalizzando anche le comunità protestanti. Sì. Oltre sì, che hanno, diciamo così, una pratica buddista ben diversa da quella che va di moda, da, diciamo così, almeno da chi si avvicina al buddismo partendo dall'Europa. Quindi hanno, per così dire, un'articolazione diversa da come li pensiamo, perché sono tutti uguali, invece in realtà sono tutti diversi. Sì, perché una delle cose che abbiamo notato è veramente la scarsa rigidità dei cinesi come popolazione. Non hanno un orgoglio di essere cinesi, ma tolto quello sono disposti a cambiare, a sperimentare. Hanno un po' quella gioia di scoprire che... Beh, io non ero ancora nato, però che si vede nei film italiani del dopoguerra, no? del grande boom, questa grande vitalità, questo sentire di poter cambiare la propria esistenza. E questo in qualche maniera per noi è stato molto rinvigorente, diciamo, perché in un paese nel quale noi siamo abituati a pensare che un paese che non ha più nulla da offrire, no? Che l'Italia è un paese finito, vecchio, dal quale è meglio fuggire, in realtà è, diciamo, molto rassicurante vedere come possa essere per cambiando semplicemente un po' di prospettiva e avendo, non avendo paura di cadere, può essere anche un paese che ha ancora tantissimo da offrire. Ma quello però è un, quella è una frontiera molto delicata, credo, perché poi in realtà noi la percorriamo, la attraversiamo a parole molto facilmente, però non ci accorgiamo che in realtà, se noi dovessimo presupporre che in un paese che ha il più alto tasso di sessantenni in Europa, chiamato Italia, è un paese di mamme fino agli anni 60, ormai è diventato un paese di anziani, e che, cito un articolo di Antonio Golini, che è uno dei nostri maggiori demografi, se per incantamento oggi tutte le italiane fertili si ritrovassero con tre figli piccoli, questo fatto, questo miracolo avrebbe sul sistema sociale un impatto zero per almeno 30 anni. Presupporre che quello che non abbiamo fatto noi possano fare loro, compresi i figli, è, diciamo, comunque uno sguardo che rischierebbe pure di diventare razzista oppure no. Beh, anzitutto però vorrei iniziare dando un dato controbattendo con un altro dato, perché la comunità cinese è tra le più giovani d'Italia. Solo il 2% ha oltre 60 anni e il 60% ha meno dei 30 anni, e questo in qualche maniera già ci spiega, al di là della razza, no? Il motivo di tanto dinamismo. Ma una delle curiosità dell'antropologia culturale moderna è l'attesa degli esiti del cosiddetto esperimento cinese, che è consistito in quella politica demografica del figlio unico, che si è sposata in Cina con un incidente di percorso teorico molto forte, che è stata la preminenza al figlio maschio, per cui la società cinese è sperequata in senso demografico, con eccedenza di maschi e un'assoluta carenza di donne. E in Cina, nella Cina continentale, iniziano strani fenomeni come andarsi a cercare la moglie in Corea, in altre parti, dove addirittura in Giappone, dove una parte della popolazione ha comunque radici cinesi. Radici manciù. Ma diciamo così, il fatto che dei cinesi abbiano trovato in un paese come il nostro la possibilità di non essere limitati nella loro scelta paterna e materna, cioè in realtà hanno usufruito di un diritto garantito agli italiani che gli italiani hanno dovuto esercitare, questo è, diciamo così, una sovrapposizione culturale io trovo molto bella. Sì, è molto curiosa, e infatti è abbastanza interessante che appunto questi ragazzi nati negli anni 80 sono, secondo gli standard cinesi, viziatissimi, perché sono i figli a cui i genitori veramente palpabilmente, noi percepiamo i cinesi come un popolo molto freddo, così, e invece li vediamo che sono proprio, hanno questo affetto quasi, i genitori hanno questo orgoglio per i figli enorme, infatti questi figli sono hanno anche e soprattutto perché, come dicevo prima, la prima generazione ha badato soprattutto a lavorare, quindi quando hanno avuto questi secondi, terzi figli, li hanno mandati generalmente indietro in Cina a stare con i nonni. Molti di questi sono stati fino a 12, 13, 14 anni in Cina e poi sono ritornati, quindi loro li chiamano orfani bianchi, però insomma sono chiaramente stati coccolati fino all'adolescenza, dopodiché sono arrivati in Italia. E in Italia hanno svolto questo ruolo molto interessante, perché sì, da un lato sono molto viziati e così, però dall'altro è vero anche che sono stati molto responsabilizzati, perché in qualche maniera sono spesso il tramite tra genitori e il resto del mondo. È curioso vedere queste trattative tra un imprenditore italiano e un imprenditore cinese, in cui in realtà il vero ago della bilancia è magari un ragazzetto di 12 anni. È una cosa abbastanza curiosa. Ma quando a me è successo, quando vivevo in Africa, incontrare un mondo rovesciato, nel sentire per esempio una mamma che minacciava il bambino: se continua a piangere chiamo l'uomo bianco, viene l'uomo bianco, ho il convincimento molto forte delle popolazioni lubacasai che i cannibali esistono, sì, ma sono tutti o portoghesi italiani. Hai capito perché? O sentirsi dire sono tutto sporco, sono tutto bianco. Quindi in realtà era così, il rovesciamento di alcune categorie che sembravano depositate nella sicurezza psicologica. Dico, ah, sono tutto zozzo, tutto nero. Invece lo dico, sono tutto sporco, sono tutto bianco. E invece questi ragazzetti sono noti in Cina come i cinesi banana, cioè gialli fuori e bianchi dentro. E bianchi quindi, dentro. Quindi sono... Come ci vedono gli immigrati cinesi in Italia? E dunque, gli immigrati cinesi in Italia hanno in realtà una grande curiosità, perché hanno un grandissimo interesse per questo famoso Italian way of life, che è un nostro modo di vivere magari più rilassato, che ci sappiamo godere la vita e spendiamo un sacco di soldi in vacanze e tutto questo. E però dall'altro sono molto perplessi dalle nostre normative, in qualche maniera. No, almeno più di una persona ci ha detto, in Cina quando c'è una regola è quella si segue, mentre in Italia noi conosciamo l'ordinamento, però siamo molto perplessi a vedere come questo ordinamento è effettivamente applicato o non applicato o applicato in diverse misure. Questo li lascia veramente molto perplessi. Bene, stiamo parlando con Vincenzo De Cecco, autore di Miss Little China, sudano, piangono, sognano, l'Italia dei cinesi, una ricerca che è anche immagine, che è anche libro, è pubblicato da Chiare Lettere, lo trovate in libreria. Il cielo in una frase, di Filippo Di Giacomo. È di Vincenzo De Cecco la nostra guida questa settimana, coautore insieme a Riccardo Cremona di Miss Little China, sudano, piangono, sognano, l'Italia dei cinesi, Chiare Lettere, DVD e libro. De Cecco, bisogna partire con una citazione, così seguiamo la tradizione di questo nuovo, ho visto che ha fatto l'orecchietta a una parte del suo libro, cosa voleva leggerci? Volevo leggervi un pezzo, una relazione al congresso americano del 1912, che così recita. Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua, molti di loro puzzano anche perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno e alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono a avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Fanno molti figli che faticano a mantenere e sono assai uniti tra loro. Erano gli italiani negli Stati Uniti d'America. Esattamente. Potevano essere abruzzesi, potevano essere pugliesi, potevano essere calabresi, perché poi lo stesso rapporto specifica, va tutto sommato, però se uno da meglio prende dei piemontesi, perché sono, più, più ignoranti degli altri, però lavorano e stanno zitti. Esattamente. Anzi, dice tardi di comprendere. Tardi di comprendere, però insomma, appunto per questo lavorano e stanno zitti. I piemontesi, diciamo, 10 anni dopo aver fatto l'Italia. E anche i veneti, i nostri famosi autori del miracolo del Nord-Est. Sì, vabbè, questa è, diciamo così, qualcuno diceva che il razzismo è la filosofia degli ignoranti, si può essere ignoranti sull'uomo in ogni epoca, in ogni cultura, anche in quelle che si credono molto avanzate, però guardando il suo libro vedo che ritorna comunque una costante, che è comunque un topos abbastanza letterario, tra i cinesi e una loro propensione, quella con i casinò e le case da gioco. Beh, in effetti, quando abbiamo intervistato il presidente del casinò di Venezia, lui ci ha detto orgogliosamente che in effetti quello è uno dei pochi luoghi dove i cinesi effettivamente lasciano dei soldi che uscire dalla propria comunità, perché sono malati, malati di gioco, assolutamente. Di gioco d'azzardo, poi. Di gioco d'azzardo. Anzi, nel casinò di Canoghera, che è il più grande d'Europa, peraltro, il 35% degli avventori alla roulette sono cinesi. e quel casinò genera il 40% del bilancio del comune di Venezia, quasi. Quindi è abbastanza impressionante come cosa. E sono lì a ogni ora del gioco, a ogni ora del giorno e della notte, è impressionante. E lei ha avuto lavorano e poi... Diciamo, lei ha avuto occasione di chiedere a dei cinesi, ma perché siete malati così fortemente di gioco? Cosa vi attira? È questa cosa del rischio, e loro in qualche maniera sono molto attratti da questo. Certo, molti ci dicono, noi lavoriamo e poi non conosciamo nessuno, non possiamo parlare con nessuno fuori dalla nostra comunità, non abbiamo nulla da fare, quindi andiamo al casinò. Certo, questa suona più come una scusa, anche perché sono malati di gioco in Cina stessa. Il 40% del bilancio del comune civico di Venezia è 107 milioni di euro. E cito il libro di Cremone De Cecco, a Noghera i cinesi sono talmente tanti che a un tavolo di blackjack la croupier si diverte a prendere in giro l'unica cliente italiana. Guardi che qui siamo in Cina, ha portato il passaporto. E da lì, infatti, in questo casino, appunto per questo, in questo casino si svolge anche questo concorso di Miss China in Italia, dal quale vengono tutte ragazze cinesi residenti in Italia a fare questo concorso di bellezza per sole cinesi, e che è un po' il punto di partenza del nostro documentario. Noi abbiamo cercato di dare di partire con un tono meno apocalittico rispetto al tono che si usa per i documentari sull'immigrazione. E scelgono una ragazza italianizzata o continuano a preferire una ragazza? Poi sì, abbiamo tutti quanti letti quei libri che poi bisogna negare di aver letto, insomma, da adolescenti, per cui sappiamo i canoni della bellezza cinese, l'uovo di anatra, il viso, eccetera, eccetera. Quindi magari... Beh, la giuria è mista, quindi sì, credo che sì, era una delle più italianizzate, quella che ha vinto, in realtà. Anche se, insomma, è sempre più difficile, per esempio, uno dei canoni di bellezza che noi sappiamo, classici, che la bellezza corrisponde al pallore, e invece tantissime di queste ragazze si fanno lampade, cose, ormai sono... molto curioso di sperimentare, io credo che sia veramente una questa curiosità, cioè, devo dire che ci ha veramente rinvigoriti anche a noi. E qui spendiamo anche una lancia a favore dei ristoranti cinesi. L'ASL 4 di Prato dal 2004 effettua ogni anno controlli nei ristoranti cinesi della città. Badate, a tappeto tutti, non a campione. Ebbene, non c'è stata una volta che si sia riscontrata una carne diversa da quella dichiarata sul menù. Questa è un'altra leggenda metropolitana che cade, insomma. Diciamo, si mangia carne vera, non si mangia gatto nei ristoranti cinesi. No, sì, appunto, devo dire che al di là di quello, ci sono due cose ulteriori da dire. Una è che questa flessibilità si trasmette anche alla nazionalità del ristorante. Gran parte dei ristoranti giapponesi in Italia sono tenuti da cinesi. Perché? Perché adesso il ristorante giapponese guadagna meglio, quindi perché impuntarsi sulla propria identità? Diamogli quello che vogliono. La cucina dei ristoranti cinesi in Italia è diversa dalla cucina cinese, è molto interessante. Ci sono i ristoranti per cinesi all'interno della Chinatown che hanno dei menù molto diversi, molto più buoni peraltro, di quelli tra virgolette per italiani, perché loro cercano di adattarsi perché è un'impresa commerciale più che una passione, è un desiderio di accumulare un capitale in modo che i figli non debbano fare la loro vita. No? Io il parallelo veramente più vicino con questa comunità è quella del, non lo so, per esempio, io ho vissuto molto tempo a Firenze, quella dei piccoli industriali del tessile pratese, che avevano queste fabbrichette in cui al piano di sopra c'era la casa, al piano di sotto c'era la fabbrica, e l'imprenditore era esso stesso operaio, e lavorava, e questa cosa si è esaurita in una generazione, no? E dopo una grande accumulazione, dopo il grande boom degli anni Ottanta, i figli, naturalmente, essendo andate, avendo frequentato l'università, non hanno ritenuto giustamente di poi ritornare davanti a un telaio. Infatti, nel libro, la vincitrice del concorso di Miss China, Miss Little China, che dichiara: quel che so è che non voglio fare come i miei, voglio avere un giorno libero alla settimana, se non due, farmi le mie vacanze e avere una vita normale, insomma. Esattamente. E questa è l'aspirazione di una Miss. Non vuole diventare velina, né vuole concorrere a fare la meteorina a qualche programma. Vuole vivere una bella vita da donna, da mamma, da moglie. No, una così per nera una battuta. Loro erano, molti di questi ragazzi parlando, c'erano molto perplessi rispetto a questa cosa che c'è adesso in Italia, no? Di voler sfruttare la propria bellezza per diventare famosi in televisione, così. Loro sono molto perplessi, no? Dicendo: tutti questi reality, qual è il reale senso? E ci portava un esempio, questo, l'equivalente cinese, che è una cosa di in cui ognuno sviluppa il proprio business, no? E vince, il vincitore vince una cena con un grande imprenditore cinese. Questo per loro è una cosa molto più seria rispetto alle nostre veline, ai nostri tronisti. In fondo, forse, come dargli torto, almeno. Miss Little China, sudano, piangono, sognano, l'Italia dei cinesi, di Riccardo Cremona, Vincenzo De Cecco. DVD e libro per Chiare Lettere, diciamo così, un'esperienza, un viaggio all'interno della nostra realtà, che si può benissimo fare d'estate restando a casa propria, ma è comunque un viaggio istruttivo. Grazie per essere stato con noi, De Cecco. Grazie a voi. Grazie a Riccardo, grazie a Alessandro, e a risentirci.